ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro nono, versi 454-797. Mileto di Creta ha fondato in Lidia una città e ha sposato la figlia del fiume Meandro, dalla quale ha due figli, Biblide e Cauno. Biblide, che alle fanciulle ingiunge amori per bene, infuriata lei di passione per l'Apollineo fratello che amava come sorella non deve amarlo un fratello. A tutta prima non sa la natura di quella passione, non pensa sia colpa baciarlo sempre, non pensa sia colpa buttargli continuamente le braccia al collo, ingannata dall'illusione di un'intimità familiare. Ma poco a poco l'amore si impenna. Se deve incontrare il fratello, si trucca troppo, si preoccupa troppo di sembrargli bellissima. E se vede con lui una ragazza più bella, muore d'invidia. Però confessarselo ancora non sa. Si consuma, ma senza dare un nome al desiderio. Però dentro è un bracere. Però comincia a chiamarlo signore. La stufano i nomi domestici. Preferisce che lui la chiami Biblide. Odia sorella. Tuttavia non osa da sveglia abbassarsi a oscene speranze. Da sveglia! Ma quando si arrende alle dolcezze del sonno, non fa che vedere il suo amore, e una volta le parve perfino di accorparsi al fratello, e per quanto dormisse, arrossì. Svanisce il sonno. Lei si ripassa in un lungo silenzio le figure del sogno, e turbata nel profondo, si parla così. Povera me, che significa questa scena notturna che speriamo non si realizzi mai? Come mai l'ho sognata? Bello è bello, lo vedono tutti, anche chi non vorrebbe vederlo, e mi piace, e potrei benissimo amarlo, non fosse un fratello, e potrebbe lui meritarmi, ma son sua sorella, ecco il guaio. E per quanto da sveglia, io mai farei qualcosa del genere. Spero tanto che quelle visioni, mi ritornino in sogno. Chi ti spia quando dormi? E il piacere sognato, anche quello è un piacere. Ah, Venere mia, Cupido, uccellino della tua mamma, ma quanto ho goduto, ma che spudorata lascivia mi ha preso. Che bello sentirmelo sopra, mentre io mi squagliavo tutta. E che bei ricordi, per breve che fosse il piacere, per quanta premura di interromperci, avesse la notte gelosa. Oh, se appena potessi cambiarmi di nome e sposarti, Cauno, che meraviglia di nuora sarei per tuo padre, e che genero meraviglioso saresti tu per il mio. Vorrei che il cielo in tutto ci accomunasse, fuorché negli antenati, e vorrei che il più nobile fossi tu. Chissà chi renderai madre bellissimo, mentre per me, che purtroppo ho i tuoi genitori, non sarai che un fratello proibito. Finiremo per condividere soltanto questo divieto. Ma allora, che mi significano i miei fantasmi? Che i sogni non contano nulla, ma i sogni conteranno pure qualcosa. Beati gli dèi, non sai quante sorelle gli dèi si son fatte. Saturno, Opis è presa con tutto che sua consanguinea. Oceano, Teti, e il re dell'Olimpo ha sposato Giunone. Ma gli dèi hanno un codice loro. Perché mi ostino a applicare alla nostra morale leggi celesti che non ci competono? Niente, o espello dal cuore questa abietta passione, o se non ce la faccio, voglio prima morire e morta lasciarmi baciare da mio fratello composta nel feretro. Ma dopo tutto, son cose queste che si decidono in due. A me supponiamo che piaccia, e se a lui sembrasse un'infamia, non andavano i figli di Eolo a letto con le sorelle. Come faccio a saperlo? Perché ho pescato l'esempio? Ma dove vado a parare? Sciò, via da me, deprecabili fiamme. Una sorella, un fratello deve amarlo, però da sorella. Ma chissà, fosse stato lui a innamorarsi per primo, avrei potuto, chissà, indulgere alle sue brame. Io però, che pressata da lui, non lo avrei, suppongo, respinto. Posso corrergli dietro, parlargli, dichiararmi. Io posso. Tu puoi? Per amore sì che potrò. E se il pudore mi chiude la bocca, uno scritto furtivo svelerà questo fuoco nascosto. L'idea non le dispiace, e quella decisione sgomina i dubbi. Si tira su, si puntella su un gomito. Adesso sta a lui decidere. Io glielo confesso, questo mio folle amore. Ahimè, dov'è che precipito? Che delirio mi intrappola il cuore. E con la mano che trema si studia le frasi da scrivere. Nella destra allo stilo, nell'altra la tavoletta di cera liscia. Comincia e si impunta. Scrive e si pente. Prende la tavoletta, la posa, non la posa, che già la riprende. Scrive e cancella. Corregge. Si trova infame. Si approva. Non sa che vuole e qualsiasi cosa decida di fare non le piace per niente. Sul viso le leggi impudenza e pudore. Ha scritto sorella, decide di cancellare sorella e di istoriare la cera ripianata con queste parole. Quella felicità che se a dargliela non sei tu, non avrà mai, ti augura chi ti ama. Chi sono? Ho vergogna. E se vuoi sapere che voglio, avrei preferito spiegartelo senza mettere il nome. E prima d'esser sicura che questo mio sogno si avveri, non farmi riconoscere. Biblide sono. Se io avessi il cuore ferito, però, tu potevi capirlo da com'ero sciupata, pallida, dagli sguardi, dagli occhi bagnati quasi sempre, dai tanti sospiri senza una causa plausibile, dagli abbracci continui, dai baci che a farci un po' caso si poteva capire benissimo che non erano da sorella. Io comunque, per quanto col cuore atrocemente ulcerato, per quanto bruciata di dentro dalla passione, lo sanno gli dèi che ho fatto di tutto per provare a guarire. Ho lottato per sottrarmi alle frecce spietate, poverina, del mio desiderio. Se ho lottato e sofferto più di quanto tu immagini possa sopportare una giovane donna, ho perso. E mi vedo costretta a dirtelo ed a mendicare timidissimamente il tuo aiuto. Puoi salvarla tu solo, la donna che ti ama. Tu solo dannarla. Decidi tu cosa fare. Non è una nemica a pregarti, è una che ti è legatissima e spasima di legartisi ancora di più, con un vincolo, insomma, ancora più stretto. Le leggi lasciamole ai vecchi, che decidano loro le cose permesse e le cose vietate, spulciando cavilli dai codici. Alla nostra età devi essere temerario in amore. Noi non sappiamo che cosa sia lecito, ancora convinti che tutto lo sia, in questo attenendoci all'esempio dei massimi dei. Non sarà il rigore paterno, tantomeno la reputazione o la paura saranno a fermarci. E paura di che? Ai dolci convegni darà copertura l'esser fratelli? Nessuno mi può proibire di appartarmi a parlare con te, di abbracciarti o di tempestarti di baci davanti a tutti. Che cosa aspettiamo? Pietà, di chi ti confessa il suo amore, costretta da una passione estrema. Eviterei, fossi in te, che sulla mia tomba si dicesse che è colpa tua. Incidendo queste parole inutili, l'ultima tavola ha riempito, tanto che l'ultima riga la traccia sul margine. Subito firma ed imprime sulla propria condanna il sigillo umettato di lacrime. In bocca non ha più saliva. Morendo dalla vergogna, convoca un servo e con la massima gentilezza gli fa: carissimo, portali a mio. E ci mette un secolo a chiudere con la parola fratello. Nel consegnargli quelle tavolette le cascan di mano. Il presagio la turba, però le spedisce lo stesso. Colto il momento giusto, il messaggero consegna a Cauno il messaggio segreto. E il nipote di Meandro perde la testa, butta via le tavole senza nemmeno finire di leggerle e, trattenendosi appena dal prendere il servo a schiaffi, finché sei in tempo, gli urla: sparisci, ruffiano schifoso d'una libidine oscena, e ringrazia che non mi conviene di rovinarmi ammazzandoti, altrimenti saresti già morto. Scappa tremando quello e alla padrona riporta le minacce di Cauno. Biblide, a saperti respinta, tu sbianchi e rabbrividisci tutta tracciata dal gelo. Ma appena torna in se stessa, le tornano le stesse ossessioni e in un soffio di voce le scappano queste parole: è giusto così. Le mie pene dovevo proprio metterle in piazza. Che fretta avevo di affidare a una missiva avventata espressioni che andavano tenute nascoste. Prima dovevo sondargli il fondo del cuore con parole che dicono e non dicono, per evitare che lui non mi desse corda. Potevo ben controllare con qualche straccio di vela che vento tirava e mettermi in mare tranquilla, che invece ho spiegato tutte le vele a venti che non conoscevo. Ed eccomi qua, sbatacchiata sugli scogli, con tutto l'oceano che mi si rompe in testa, e invertire la rotta non posso. Non era sicuro il presagio che mi proibiva di illudermi in amore, quando, ordinando di portarle a chi di dovere, le tavolette mi caddero e mi cadde qualsiasi speranza. Non era meglio cambiare il giorno, se non tutto il piano, no, meglio il giorno. Il Dio mi metteva in guardia con segni più che chiari, chiarissimi, non fossi stata fuori di testa. In tutti i casi mai affidarmi alla cera da scrivere, parlargli a quattro occhi, svelargli il mio delirio da soli. Avrebbe visto le lacrime, la faccia di chi l'amava, e avrei potuto ben dirgli qualcosa in più che per lettera. Anche se lui non voleva, potevo gettargli le braccia al collo ed, ove respinta, fingermi in punto di morte e, una volta crollata ai suoi piedi, supplicarlo per la mia vita. Tutte le avrei provate, che provandole una per volta non lo ammansivano, ma tutte insieme magari sì. E non escludo che abbia le sue colpe anche il servo postino. Non lo avrà abbordato nel modo giusto, né scelto il momento più adatto, nell'attimo in cui non avesse troppi pensieri. Deve essere qualcosa del genere. No, lui non è un figlio di tigre. Nel cuore non ha la durezza della roccia e neppure del ferro o dell'acciaio, e non succhia il latte dalle leonesse. Vuoi vedere che ce la faccio? Purché non mi stanchi mai di tentare e di ritentare finché avrò un'anima in corpo. Intanto, visto che non si può revocare il già fatto, se prima non si doveva cominciare, ora devo concludere. D'altronde, anche se io rinunciassi alle mie speranze, lui mai dimenticherà l'impudenza che mi sono permessa. D'altronde, ove mai desistessi, potrebbe sembrare che fosse un capriccio e nient'altro, che insomma io volessi adescarlo per prenderlo in trappola. E comunque lui penserebbe che non mi son data per vinta al Dio che mi strozza e mi brucia, ma alla pura libidine. E poi, sai tu come faccio a negare di aver commesso un'infamia? Gli ho scritto, gli son corsa dietro, palesando intenzioni spregevoli, che anche a lasciare le cose come stanno, innocente non sono. La speranza ha un futuro davanti. La colpa è quello che è. Ci ho detto, nel più totale marasma di volontà, rimpiange d'aver tentato e ritenta e perde il controllo esponendosi, povera donna, a una raffica di rifiuti. E Cauno, che non intravede una fine, rifugge la patria e il tentato incesto e dall'estero fonda una nuova città. Allora si dice la figlia di Mileto abbia perso del tutto la ragione, si sia stracciata sul davanti la veste, si sia tempestate le braccia con la massima furia e, oramai, manifestamente impazzita, parlasse di quella passione inevasa con tutti e per questo lasciasse la patria e gli odiosi penati, mettendosi in traccia di suo fratello Fuggiasco. Come quando, figlio di Semele, dal tuo tirso istigate, le baccanti di Tracia festeggiano qualche tua sagra biennale, così le donne di Bubaso videro Biblide correre per i campi ululando, e lasciatosi alle spalle Bubaso va sbandando fra i Carii, fra i Lelegi bellicosi, in terra di Licia. E ha passato il monte Crago, la città di Limire, il fiume Xanto, l'altura tana della chimera fasciata di fiamme, petto e muso da leonessa, coda di serpe. Quando poi si diradano i boschi, spossata dall'inseguimento, crolli e resti sdraiata, sparsa le trecce per terra, il viso schiacciato contro le foglie, biblide morte. Quante volte tentan le ninfe del paese dei Lelegi, quante, di sollevarla con mani delicate e le danno consigli per guarirla dal male d'amore, ma lei non le sente nemmeno. Muta, biblide giace con le unghie ficcate nel verde dell'erba, irrigando il prato con un torrente di lacrime. Da quelle si narra le ninfe cavassero una inestinguibile vena d'acqua. Potevano farle un omaggio più bello di questo. Allora, come da un pino inciso, sgocciola resina, o il fondo del suolo trasuda bitume, o al primissimo refolo del ponentino, l'acqua cristallizzata dal gelo si lascia squagliare dal sole, ecco così, struggendosi nelle proprie lacrime, biblide, la nipotina di Febo si muta nella sorgente, che oggi ancora per quelle convalli porta il nome della padrona e sgorga all'ombra di un leccio. Chissà se la fama dell'ultimo portento avrebbe riempito le 100 città di Creta, non ne fosse appena successo giusto a Creta un altro, cioè la mutazione di Ifide. Nella regione di Festo, contigua al regno di Cnosso, era venuto al mondo un Ligdo, di oscura estrazione plebea ma libero, non più ricco di quanto non fosse nobile, ma vissuto sempre con irreprensibile onestà. Alla moglie incinta, nell'imminenza del parto, questo Ligdo impartisce il seguente monito. Due son le cose che mi auguro. Uno, che tu soffra meno possibile. Due, che tu mi dia un maschio. Altrimenti sarebbe un bel guaio. Mezzi pochi ne abbiamo. Così, se per mala ventura, Dio non voglia, tu partorissi una femmina, io, disperato, mi vedrei costretto, Dio mi perdoni, a farla sopprimere. E fiotti di lacrime lavano il viso ad entrambi, tanto a chi detta le regole quanto a chi se le sente dettare. Invano lei, Teletusa, scongiura il marito, lo supplica di non dettar condizioni alla speranza. Ligdo non sente ragioni, e oramai Teletusa regge a fatica il peso di quella pancia matura, quando nel cuore della notte, in sembiante di sogno, le si pianta ai piedi del letto, o le sembra che lì le si pianti, Iside, figlia di Inaco, in pompa magna. Porta sulla fronte corna di luna, con fascio di spighe bionde d'un oro purissimo, e tutte le insegne della maestà. Al seguito Anubi, che latra, Bubaste la santa, api col mantello di tanti colori, Opi che indice il silenzio, mettendosi un dito in bocca. E non mancano i sistri, non manca Osiride, il tanto cercato, né il serpente esotico, gonfio d'un suo veleno sonnifero. E a lei che tutto vedeva nitidissimamente, come fosse sveglia, la dea Teletusa dice: «Mia Teletusa, perché ti preoccupi? Eludili gli ordini di tuo marito. Quando Lucina ti avrà sgravato, quello che sia, tientelo stretto comunque. Io sono una dea di soccorso. Chi mi chiama l'aiuto, e tu non avrai dato credito a una che non merita riconoscenza». Detto, abbandona la stanza. Salta dal letto felice la cretese, e levando alle stelle le mani innocenti, implora che la visione si avveri. In un crescendo di doglie, la creatura viene alla luce quasi da sola, femmina, che il padre non deve saperlo. La mamma la cresce come se fosse un maschietto, nessuno sospetta di nulla, la sola a conoscere il trucco è la balia. Il babbo ringrazia il cielo e le dà il nome del nonno, Ifide, il nonno. La mamma si compiace di un nome buono per ambo i sessi. Ecco una complicazione di meno. La pia menzogna maschera l'inganno. Non se ne accorge nessuno. Vestiti infantili, faccetta che ha da assegnarla a bimbo o bimba, la vedi bellissima in ogni caso. Avevi appena compiuto 12 anni che il tuo papà ti promise, Ifide mia, a Iante la bionda, figliola di Teleste del Monte Ditte, vergine apprezzatissima in tutta la zona di Festo, per quanto era bella a vedersi. Stessa età, bellezza la stessa, imparano dagli stessi maestri le stesse nozioni, adatte alla loro età. Così nei cuori bambini spiga l'amore e li punge tutti e due, ma con ben diverse aspettative. Iante non vede l'ora che arrivino le nozze, convinta com'è che il suo futuro marito naturalmente sia maschio. Ifide ama una che sa di non poter mai far sua, e questo arroventa la smania di lei, vergine per una vergine, e si dice sull'orlo del pianto: «Che fine farò? Ma ci pensi? Posseduta da una passione mai vista al mondo, inaudita, pazzesca! Se il cielo voleva salvarmi, doveva salvarmi. In caso contrario, volendo rovinarmi, almeno poteva infliggermi qualche disgrazia, meno sconcia, più naturale. La vacca non si innamora d'una vacca, d'una cavalla la cavalla. La pecora brama il montone, la cerva il suo cervo. Così si accoppian gli uccelli e fra tutte le bestie del mondo non trovi una femmina presa da smanie per una femmina. Vorrei sparire. Succedono a Creta gli orrori più strani, d'accordo. La figlia del sole si è incapricciata ad un toro, ma pur sempre una donna di un maschio. Il mio amore è molto più assurdo, diciamola tutta. Quella ha sfogato la sua libidine. Furbamente dentro la forma d'una vacca si è fatta montare dal toro e quello, l'adultero, almeno lui c'è cascato. Ma qui si riunissero i meglio cervelli del mondo a consulto. Rivolasse Dedalo qui con quelle sue ali incerate. Che farebbero? Tutte le astuzie della scienza potrebbero rendermi da femmina maschio o magari Iante cambiarti di sesso. Ma perché non ti fai coraggio tu, Ifide, e torni in te stessa e ti scrolli questa ossessione insensata e senza un domani? Sei quello che sei, non ti serve truccare le carte, desidera come si deve. Sei donna, ama quello che aman le donne. La speranza innesca l'amore, la speranza lo nutre, ma tu cosa speri di fatto? È mica un guardiano a impedirti di stringerla fra le braccia. Son mica i sospetti di un marito geloso e nemmeno un padre severo. Lei stessa, se le chiedi, ti dice di sì. Ma non puoi possederla e anche tutto ti andasse liscio, felice tu mai, con tutto l'appoggio degli uomini e degli dèi. Non c'è desiderio che ad oggi mi sia andato a vuoto. Con me sono stati gli dèi così buoni da far tutto ciò che potevano. Quel che voglio è quello che vogliono mio padre e il futuro mio suocero. Però la natura non vuole, che è poi la più forte di tutti, la mia nemica natura. Sta arrivando il dì delle nozze, il momento sognato, e Iante sarà tutta mia, che non posso prenderla. Noi moriremo di sete, affogando nell'acqua. Che ci venite a fare, Imeneo, Giunone, a una festa senza sposo, ma con una bella coppia di spose? Noi due. Qui le si spegne la voce. Nell'altra è meno in calore e ti mette fretta e non vede l'ora che tu arrivi, Imeneo. Il contrario di quello che vuole Teletusa, che sposta la data di continuo. Oggi sta poco bene, domani ha la scusa di un sogno che promette poco di buono. Ma ormai le ha tentate tutte e il tempo del matrimonio, rimanda che ti rimanda, è scaduto, non manca che un giorno. E lei, slacciate le bende che fermano a lei, non meno che a sua figlia, i capelli, li sparge sopra l'altare di Iside, abbraccia l'altare, prorompe. Iside, o tu, venerata a Paretonio, nell'agro di Marea, di Faro, del Nilo, che in sette foci dirama, aiutaci tu, te ne prego, guarisci le nostre paure. Io ti ho vista, che credi? Ti ho vista e riconosciuta con tutte le insegne, seguito, fiaccole, eccetera, schiocco di sistri, e ho registrato nell'anima tutti i tuoi comandamenti. Se questa mia piccola è viva, se non sono stata punita, è su tuo consiglio, è per tua grazia. Abbi pietà di noi due, dacci una mano. E qui le parole si sciolgono in pianto, e le sembra davvero che la dea stia scuotendo l'altare, che tremi la porta del tempio, che rifulgano corna sul genere della falce di luna, che i sistri ricomincino a crepitare. Non ancora tranquilla del tutto, ma un po' sollevata dal fausto presagio, la madre abbandona il tempio e Ifide dietro, che cammina con passo spedito più di prima, la pelle del viso non più così delicata, più muscoli, i tratti più duri, i capelli molto più corti e senza la solita benda, in tutto il corpo più forza di quando era femmina. Infatti eri femmina e adesso sei maschio. Si portano offerte agli altari e si aggiunge un'epigrafe, epigrafe brevissima, un verso soltanto. Ifide scioglie da uomo i voti fatti da donna. Quando il giorno dopo il mondo si squaderna nei raggi del sole, Venere con Imeneo e Giunone presenziano al rito nuziale e il giovane Ifide si prende la giovane Iante.